Focus Economia di Sebastiano Barisoni. A 7:11 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, per quello che riguarda il Recovery Plan, quindi il piano che l'Italia deve presentare all'Europa, oggi il Premier Conte ha smentito in discrezione di stampa che vi sia un'irritazione europea e che il piano sia in ritardo. Ne parleremo, le definite fake news, il fatto che il ritardo, che vi sia un ritardo italiano che stia irritando l'Europa, lo ha ribadito anche il ministro degli affari europei Enzo Amendola, ha detto nessun allarme in Unione Europea sul piano italiano. Sappiamo però che nella manovra c'è un fondo da 120 miliardi in 3 anni che è un fondo di anticipazione, cioè in attesa che arrivino i fondi europei del recovery. Le regole per la raccolta e monitoraggio dei dati, ma anche due conti separati per i sussidi di fondo perduto da un lato e per i prestiti, sono le misure previste, sono sì dei conti in cui confluiranno da un lato quelli che sono i prestiti, sappiamo fino a 87 miliardi, e invece nell'altro quelli che sono i soldi a fondo perduto fino a 83 miliardi, dall'altro invece i prestiti che riguardano il resto dei 207 miliardi complessivi a cui ha diritto l'Italia, e poi una struttura ad hoc di coordinamento, raccordo e sostegno interna alla Ragioneria Generale dello Stato entro fine giugno e entro la fine di giugno di ogni anno a partire dall'anno prossimo una relazione al Parlamento con i prospetti sull'utilizzo delle risorse e i risultati raggiunti. Di questo parleremo, perché insomma questo inizia a essere lo scheletro non solo delle richieste italiane che ancora non conosciamo, ma anche quello che è, a mio avviso, ugualmente importante, quella che si chiama, alcuni la chiamano cabina di regia, ma insomma il modo in cui l'Italia non solo presenterà dei piani, ma li controllerà e farà un rapporto al Parlamento. Di questo, dicevo, parleremo in apertura però anche di due categorie, perché oggi c'è un dato che riguarda il mondo delle costruzioni che è tornato a frenare bruscamente dopo c'è parziale ripresa, ma a settembre aveva già fatto un meno 8,1% rispetto ad agosto dopo 4 mesi di crescita. Su base annua però c'è ancora un più 5%. Preoccupazione nel mondo delle costruzioni perché la produzione ha recuperato il 50% nel terzo trimestre, ma dopo osserva l'ANCE, dopo la ripresa dei mesi centrali dell'estate, la produzione nelle costruzioni ha segnato una prima flessione congiunturale, pur, come ricordavo, con un aumento rispetto all'anno prima. Parleremo anche di un altro settore che spesso viene confuso come un settore, diciamo, di nicchia per il nome, il settore del lusso. In realtà l'Italia detiene quote fondamentali a livello mondiale nel quello che noi chiamiamo lusso. Abbiamo il 30% del mercato nell'arredamento di design, il 23% nei beni di lusso per la persona, che vuol dire dall'abbigliamento agli accessori, le calzature, la pelletteria, la cosmetica, gioielli, profumi, il 30% a livello di food and beverage e ristorazione, 22% per vini e liquori, 40% nella nautica. Tra l'altro è uscito uno studio di KPMG che registra come il marchio Made in Italy è il secondo, è il terzo più noto al mondo dopo Coca-Cola e Visa. E secondo, tra l'altro, i dati di Brand Finance, il valore generato dall'italianità dei prodotti, cioè il fatto che una cosa sia marchiata Made in Italy, vale 200 miliardi di dollari. Ora, vista questo settore, c'è cioè un'industria da 115 miliardi, che vale quasi il 7% del PIL e ha 400 mila occupati, anche qui il 2020 registra un calo senza precedenti fino al 25 per cento, è chiaro che vi è il combinato disposto di due elementi. Da un lato minori consumi anche interni, negozi chiusi e difficoltà economiche, ma dall'altro anche l'assenza dei turisti, dei paesi che più sono, diciamo, ricettivi del nostro lusso, e mi riferisco a Cina, Stati Uniti, Russia, Medio Oriente, cioè l'assenza proprio dei turisti che vengono a fare acquisti anche in Italia, ha dato l'altra botta al settore. Per quello che riguarda invece la borsa, visto che qualcuno di voi me lo chiede già, stiamo assistendo anche oggi a quella che si chiama rotazione, e cioè stanno andando, la borsa oggi è leggermente negativa, meno 0,26%, Parigi meno 0,70%, Francoforte meno 0,80%, Londra meno 0,90% e il Dow Jones meno 0,50%, ma continua a esserci una rotazione dovuta a che cosa? Cioè si cerca di vendere, insomma, oggi è meno netta, titoli che erano cresciuti molto nei mesi scorsi, e si torna a comprare titoli che invece erano stati dimenticati o messi in disparte nei mesi scorsi, sulla base di quale ragionamento, l'abbiamo detto più volte, e cioè il fatto che oggi anche AstraZeneca dica di essere molto vicina, quindi Oxford e IRBM di Pomezia, a un vaccino con un altissimo tasso di copertura, addirittura si è ben visto 99%. Beh, insomma, il fatto che Pfizer, Moderna, AstraZeneca, i grandi, la corsa al vaccino stia accelerando oggettivamente e tutti parlino in maniera abbastanza esplicita di dosi, per quanto solo per inizialmente per gli operatori sanitari e per le fasce più a rischio, già da gennaio, è chiaro che fa posizionare la borsa sul settore industriale, immaginando che vi possa essere una liberazione, diciamo così, delle attività produttive prima delle attese, quindi prima di marzo-aprile. E lì si posiziona Inuit, guadagna il 3,77, Fiat Chrysler il 2, Snam l'1,80, Diassori l'1,30, Biper più 1,20, Comital Gas, Steam Electronics più 1%, Enel più 0,80, cede Amplifon il 3,60, Prismian il 2,5, Azimut il 2,20, Mediolanum pure, Exor il 2%, Leonardo meno 2. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Dunque, vedo che alcuni mi scrivono di nuovo sul tema delle regioni. Guardate, domani abbiamo la classifica. Oggi, diciamo, se qualcuno si attende che attacchi di nuovo la corsa delle regioni per uscire dai colori, dimenticando però i progetti per la scuola, l'ho già fatto ieri, non voglio tornare oggi sul tema, domani ci sarà modo per parlare di nuovo, non di questo tema della scuola e delle regioni, ma di insieme di notizie, visto che venerdì abbiamo la poco invidiabile classifica. Segnalo invece sul fronte delle notizie in breve il fatto che il Fondo Monetario oggi abbia lanciato un allarme su una ripresa economica mondiale che potrebbe perdere slancio con il nuovo balzo dei casi di Covid-19, le incertezze e i rischi sono molto alti, però il superindice economico negli Stati Uniti è in linea con le attese, più 0,7%, le vendite di case esistenti negli Stati Uniti sono sopra le attese, più 4,3%. L'OCSE nel frattempo dice all'Europa che deve prepararsi meglio per uscire dalle nuove rigorose misure di contenimento, questo nel rapporto Health at a Glance Europe 2020, è fondamentale che i responsabili politici pianifichino strategie efficaci per riaprire le loro economie al fine di evitare ulteriori lockdown. E poi la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha detto la seconda ondata toccherà in maniera severa l'economia, e poi è intervenuta sul dibattito aperto dal Presidente del Parlamento Sassoli, che ha detto che bisognerebbe cancellare i debiti contratti per Covid. Ha risposto tra l'altro a una domanda dell'eurodeputato della Lega Marco Zanni e ha detto in sostanza, ascoltiamo in inglese, non è previsto dai trattati. Anzi, l'idea di cancellare il debito va contro i trattati. I read with interest anything that is said, written or interviewed by all members of European parliaments, particularly their president indeed. And my response is very short because I don't even ask myself the question. It's as simple as that, because anything along those lines would simply be a violation of the treaty. The ECB operates under the treaty. There's an article 123 of the treaty which prohibits that kind of approach, and I respect the treaty, period. Sono molto chiara la Lagarde, ha detto gli articoli 1, 2, 3 prevedono che, dei trattati prevedono che non vi possa essere la cancellazione del debito, non mi faccio neanche la domanda, non ragiono nemmeno sulla cosa, non si può fare, va contro i trattati. Per quello che riguarda la polemica a livello europeo, non si segnalano oggi nuovi passi in avanti, mi riferisco chiaramente all'opposizione che arriva da Ungheria e Polonia che sta bloccando il recovery. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel suo intervento all'ANCI, l'Assemblea dei Comuni Italiani, ha detto attenzione, dobbiamo augurarci che i rallentamenti che non vengono dall'Italia non vengano dal soffio di sovranismo che ancora alita in via marginale, cioè è il sovranismo che rischia a rischiare di rallentare il processo. Allora qualcuno, io non avrei niente in contrario, poi non è compito mio, ma visto che per esempio Orban ha un rapporto con il leader della Lega Salvini e anche con la leader di Fratelli d'Italia Meloni, magari vi potrebbe essere un colloquio, una moral suasion, visto che sia la Meloni che Salvini sono assolutamente favorevoli ai soldi europei, vogliono che arrivino. Ecco, magari, visto diciamo, l'asse politico che c'è, per cercare di parlare anche con Orban e eventualmente con i polacchi, se veramente esiste questo asse, perché è chiaro che va contro l'interesse nazionale italiano non ricevere i soldi del recovery. Ancora, veniamo all'Italia. Per quello che riguarda il DL Ristori si va a uno scostamento da 7 miliardi su tutto il 2020, perché si sta ragionando anche sul DL Ristori terzo. Poi ha detto sempre il vice ministro dell'economia Antonio Misiani, se vi sarà una proroga delle misure anti-Covid, stiamo valutando se avere anche un rinvio dei versamenti fiscali attesi il 30 novembre, quindi gli acconti di IRES, IRAP e IRPEF. Ancora il ministro Catalfo ha detto se necessario il governo si impegna per un'altra, per rifinanziare dopo le ulteriori 12 settimane di cassa integrazione e collegate fino a fine marzo al blocco dei licenziamenti. Il governo potrebbe stanziare ulteriori soldi, c'è un primo stanziamento in manovra da 500 milioni. La Banca d'Italia fa notare che grazie alle misure del governo italiano per far fronte alla crisi Covid nel 2020 sono stati evitati 600.000 licenziamenti. C'è uno studio che ha calcolato l'impatto delle misure di estensione della cassa integrazione e il sostegno della liquidità alle imprese, nonché il blocco dei licenziamenti. Nello studio, appunto, probabilmente si sarebbe un terzo di questi 600.000 non si sarebbe probabilmente verificato anche in assenza del blocco dei licenziamenti grazie alle misure. La Banca d'Italia chiede che la cassa integrazione Covid resti anche dopo la fine del blocco dei licenziamenti, quindi marzo, quello che abbiamo visto, marzo 2021. Però l'INPS fa notare che nei primi 8 mesi le assunzioni sono calate rispetto ai primi 8 mesi del 2019 del 35%. Beh, insomma, è un dato che viene abbastanza intuitivo: se tu blocchi i licenziamenti e hai la cassa integrazione, riesci a non aumentare, appunto, come stima la Banca d'Italia, di 600.000 persone nuovi disoccupati, difficile però che tu possa avere nel frattempo anche un aumento dei nuovi occupati. Dunque, ancora per quello che riguarda il rapporto Mediobanca oggi sull'industria italiana, la pandemia di coronavirus non ha colpito tutta l'industria allo stesso modo, perché è vero che c'è stata una contrazione del 4,3%, Ci sono stati vincitori e vinti. È un po' il profilo a cappa che molti economisti stanno evidenziando, c'è una ripresa che per alcuni è molto forte, per altri invece continua a essere una discesa. Tra i primi, tra i vincitori, figurano le web soft, la grande distribuzione e l'elettronica, che hanno visto crescere il fatturato del 18%, del 9% la grande distribuzione e del 6% l'elettronica. Mentre i grandi perdenti includono l'industria petrolifera, meno 32%, l'aeronautica, meno 30%, la moda, meno 21%, l'automotive, meno 17%. È un'indagine di Mediobanca su oltre 160 multinazionali mondiali e le 26 società industriali di servizi del FTSE MIB della borsa milanese hanno bruciato nei primi 9 mesi 46 miliardi di euro di capitalizzazione. Poi è andata anche sui singoli titoli, ha detto Svetta di Esori in più 48% perché ha beneficiato della produzione di test per il coronavirus, segue Amplifon più 20%, Recordati più 16%, Prismian più 15%, Campari più 14%, Maglia Nera per Saipem meno 66%, Tenaris meno 60%, Leonardo meno 52% ed Eni meno 52%. Dell'arresto del presidente del Consiglio Calabrese Domenico Tallini, 68 anni, Forza Italia, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso, sotto indagine i suoi presunti rapporti con la cosca grande Aracri dell'Andrangheta, e c'è anche la medicina calabrese in questo arresto, perché c'è l'inchiesta riguarda anche la costituzione di una società con base a Catanzaro finalizzata alla distribuzione all'ingrosso di prodotti medicinali mediante una rete di punti vendita costituita da farmacie e parafarmacie, 20 in Calabria, 2 in Puglia e 1 in Emilia Romagna. E questo riguarda tra l'altro il 2014 e l'aiuto che poi l'Andrangheta gli avrebbe dato a novembre del 2014. Ci sono altre 18 persone arrestate. Invece si continua a lavorare sull'ipotesi di un commissario e sul profilo, speriamo che stavolta sia la volta buona dopo i 3 buchi nell'acqua per il commissario della sanità calabrese. Oggi a Roma si è tenuta la manifestazione dei sindaci calabresi promossa dall'ANCI per chiedere al governo interventi sulla sanità calabrese, dal superamento del commissario alla cancellazione del debito sanitario, come ha spiegato il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. Noi chiediamo la fine del commissariamento perché i dati sono peggiorati negli ultimi anni e il prossimo governo regionale dovrà prendersi questa responsabilità. Non possiamo più dare mandato ai commissari che non hanno migliorato i livelli di servizi per i nostri concittadini, ma soprattutto hanno aumentato il debito della sanità in Calabria. E poi l'altra cosa che io ho voluto portare con grande attenzione è che siamo stanchi di avere una cifra inferiore rispetto alle altre regioni. Io non capisco perché con molte patologie in più in Calabria dobbiamo percepire dal governo centrale 1.740 euro a cittadino contro le 2.000 euro a cittadino del nord. La differenza sono 260 euro, che moltiplicato 1.920.000 abitanti sono 400 milioni di euro. Allora, per carità, è giusta la richiesta. Adesso vediamo se, certo che il commissario precedente Conticelli ha fatto, domani l'avremo in classifica, al di là di, diciamo, che l'hanno drogato a sua insaputa, ma ha fatto tutt'altro che un buon lavoro, stante i numeri, però io ho l'idea che si debba andare a superare il commissario, non lo so. L'idea però della cancellazione del debito sanitario non sono mica d'accordo, abbiate pazienza. Quello è un debito che è stato contratto per malfunzionamento, malversazioni, pagamenti e corruzione, grande arricchimento dell'Andrangheta. Se ogni volta lanciamo un messaggio che chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, e le centinaia di milioni di debito della sanità calabrese vengono condonate, lo rifai paro paro dopo. Ricordatevi cosa capitò col bilancio del comune di Catania quando venne salvato. No, i debiti si pagano, a maggior ragione, e così si capisce che un danno resta sul territorio, se no centralizziamo di nuovo tutto, che è la mia idea da un po'. Però 349-238-6666 per sms e whatsapp. Adesso andiamo su Meteo e pubblicità e poi sì, ascolteremo anche Gratteri da Milan questa mattina su questo. Adesso lo faccio ascoltare dopo il Meteo e la pubblicità. Poi c'è l'appuntamento settimanale con imprese vincenti, il mondo del lusso, quello delle costruzioni e che cosa riusciamo a capire del recovery plan italiano. Focus Economia. Allora, nel frattempo c'è il bollettino di oggi, sono 36.176 nuovi casi, ma con 15.000 tamponi in più rispetto a ieri, sono 2.000 casi in più rispetto a ieri, molti tamponi oggi, 250.000, i decessi sono scesi, anche se restano un livello sempre alto, 653 morti, ma la cosa più interessante sono i dati clinici, come sempre, secondo me, e quindi il numero di terapie intensive in più sono solo tra virgolette 42 in più, mentre i posti letto ricoverati nelle ultime 24 ore sono 106 rispetto ai 430 di ieri, quindi dato sulle terapie intensive e sui nuovi ricoveri buono. Particolarmente importante mi sembra quello che ha appena dichiarato il presidente della regione Lombardia Fontana: per la prima volta in Lombardia dall'inizio della nuova ondata il totale dei ricoveri ha un segno negativo, meno 32, e speriamo tutti che questo sia proprio l'appiattimento della curva e l'inizio anche di una discesa della curva. Se uno guarda quello che sta capitando in Francia, pur con molta prudenza, un po' di così, ottimismo viene, dico la Francia perché ha iniziato un paio di settimane prima con i lockdown, prima, anzi anche tre, prima mirati in alcune regioni poi nazionali. Comunque, questi dati di oggi. Grattieri, il procuratore capo Gratteri sulla sanità calabrese, ospite questa mattina da Uno Nessuno e 100.000. Me lo chiedete, ve lo faccio ascoltare volentieri. Per quanto riguarda i commissari, non possiamo fare un'insalata. Non dobbiamo mettere tutti e tre i commissari assieme. Ognuno di loro ha una storia, ha una cultura, ha comportamenti, a visioni della vita e del lavoro distinti e separati. Io ho detto che secondo me nel momento in cui si commissaria un qualcosa, chi è commissariato non deve toccare palla. Cosa voglio dire tradotto in lingua italiana? Se io ho commissariato un'ASP ed è stata sciolta per mafia, poi come soggetto attuatore io non posso delegare l'ASP. Se da Roma si decide di comprare una TAC, poi la gara per questa TAC non la deve fare l'ASP, la deve fare Roma. Se io decido dopo uno studio su tutti gli ospedali della Calabria che servono 400 medici e 1000 infermieri, io poi i concorsi non li devo fare in Calabria, non glieli devo fare a chi fa parte di una struttura sciolta per mafia. I concorsi si fanno alla Fiera di Roma con commissari che siano distanti 1000 chilometri dalla Calabria, cioè con gente che conosce la Calabria dalla cartina geografica, che non ha nessun tipo di relazioni con la Calabria, perché altrimenti non ci sarà mai una svolta. Noi possiamo commissariare anche già altri 50 anni la Calabria, ma i problemi restano, perché i problemi qui, sapete, sa cosa si è fatto negli ultimi giorni, nell'ultimo periodo? Si è fatto un'insalata, cioè si è confuso e si è messo assieme la non programmazione e il non acquisto di 100 letti per il Covid e i mali della sanità, cioè la spesa della sanità, che è un buco nero, che è un pozzo senza fondo. Io devo dire che concordo in tutto e per tutto, a parte che ho una grandissima stima per il procuratore Gratteri, ma insomma non si possono affidare poi le esecuzioni dei provvedimenti commissariali a chi è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Ma è giustissimo, poi so che queste cose sembrano troppo semplici, ma è giusto, i concorsi si fanno a Roma con commissari che vengono da altre parti del paese. Cioè, se tu sei commissariato vuol dire che non sei in grado come regione di gestire la sanità, e ne abbiamo ampiamente avuto elementi su questo, e non puoi rimettere. Ma perché? Perché c'è l'Andrangheta, ma vogliamo dirci una volta per tutte? C'è la paura di nuovo di dire Andrangheta quando si parla della sanità calabrese, o di dire controllo del territorio della Camorra quando si parlava della chiusura di Napoli? Io non lo so, abbiamo paura di nuovo delle parole? E così, e la AS non deve toccare palla, basta, tutte le acquisti vengono fatti centralizzati a Roma, magari anche con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Non c'è una siringa che viene acquistata da strutture calabresi, perché non ci possiamo fidare, ecco cosa intendo dire per centralizzazione vera, non per la finta centralizzazione. Tutto si decide e viene controllato a Roma, ok? E non certo lì. Mi dispiace, anzi con tutto il bene che voglio i calabresi onesti, che sono la maggioranza, ma non si può andare avanti così. Comunque, cambiamo radicalmente tema, imprese vincenti, altra tappa per le piccole e medie imprese che stiamo seguendo in giro per il territorio assieme a Intesa San Paolo, lo sta facendo il nostro Andrea Ferro. In Italia il terzo settore è una realtà in costante crescita. Le istituzioni no profit sono circa 360.000, tra il 2014 e il 2018 sono aumentate dell'8,2%, danno lavoro a quasi 900.000 persone. All'interno di questo mondo, uno spazio occupato dalle imprese sociali. A loro è stata dedicata una tappa di imprese vincenti, il Digital Tour di Intesa San Paolo, promosso per valorizzare le piccole e medie imprese. Come e quanto incide il terzo settore nella vita sociale ed economica del nostro paese? Lo abbiamo chiesto a Claudia Fiaschi, portavoce del Forum Terzo Settore. È un pezzo dell'architettura del nostro modo di funzionare come comunità umane in termini di solidarietà e di prossimità. Tutto il nostro sistema di welfare, ma non solo il nostro sistema di welfare, è fatto da una grande presenza non solo di iniziativa pubblica, ma anche di iniziativa organizzata dei cittadini in tantissimi settori, nella salute, nel sociale, nella cultura, nella tutela dell'ambiente, nella promozione, nelle attività ricreative, di socializzazione, nel tema dell'invecchiamento attivo, quindi in tantissimi ambiti che sono fondamentali, come abbiamo potuto sicuramente vedere in questa emergenza. Io dico spesso che uno degli indicatori di civiltà di una comunità è proprio, da una parte, il lato di diffusione di queste forme di iniziativa civica organizzata che rappresentano la forma di solidarietà, e anche la capacità di queste organizzazioni di collaborare con gli altri attori della comunità. E in particolare, cosa significa fare impresa sociale? Fare impresa sociale vuol dire utilizzare tutta la catena del valore del modello di impresa, vocandola al sociale, dal modo di aggregare il capitale al modo di organizzare i fattori della produzione, fino al modo di ridistribuzione del valore aggiunto in tutte le sue componenti, dal lato non solo delle attività che quindi sono l'oggetto sociale di quell'impresa, ma anche nel modo di coinvolgere le persone e la comunità nella creazione dei beni comuni. Quindi è una forma alta di impegno dell'economia, che peraltro negli ultimi anni ha visto sempre di più crescere le alleanze tra il mondo del non profit e il mondo del profit, perché è sempre più chiara la consapevolezza da parte di questi attori di come la collaborazione tra profit e non profit possa creare un valore aggiunto importante per una comunità. Ora, due esempi di imprese sociali. A Pontevico, in provincia di Brescia, opera la cooperativa Il Gabbiano, che ha consolidato ed esteso la sua presenza sul territorio attraverso la diversificazione delle attività. Francesco Luzzardi è il direttore generale. Il Gabbiano nasce come realtà locale nell'ambito di un gruppo di amici e nasce sui temi della disabilità e dell'assistenza domiciliare. Abbiamo fatto una scelta di differenziazione fin da subito, un po' in controtendenza rispetto a quello che succedeva nella nostra provincia dove c'è una grande tradizione di cooperazione sociale, ma molto legata a uno sviluppo territoriale molto ristretto e su singole attività. La nostra forza è stata differenziare, investire sull'integrazione e investire su degli asset anche immobiliari che ci hanno permesso di costruire iniziative non solo legate agli appalti, ma legate a accreditamenti acquisiti direttamente. Per cui il settore è mediamente a basso o bassissimo valore aggiunto. Questa differenziazione ci ha permesso di riuscire a sostenere iniziative più a contenuto, diciamo, sociale, e quindi con una sostenibilità bassissima, e coniugarle con iniziative nell'ambito sociosanitario invece più remunerative. Adesso nel nord-est, a Udine, è attiva Universis, cooperativa che gestisce le attività su tre aree, puntando in particolare sulla selezione e sulla formazione dei suoi operatori. Alessandro Burini è il vicepresidente. Sono servizi dedicati a utenza fragile, quindi agli anziani, ai disabili, ai minori, e negli ultimi anni abbiamo acquisito esperienza anche nei servizi specialistici sanitari. Attualmente siamo più di 3.500, sono una grossa parte di questi sono soci lavoratori. Si tiene in piedi intanto cercando di utilizzare al massimo quelle che sono le professionalità degli operatori che collaborano con la cooperativa, quindi cercando di selezionare delle persone che abbiano dei profili professionali qualificati, e investendo sulla formazione dei medesimi, quindi cercando di fidelizzarli in modo da portare avanti un percorso di crescita professionale e di continuità data ai servizi. Allora, grazie Andrea Ferro per averci portato in questo viaggio in Italia, nelle piccole e medie imprese, questa volta nelle piccole e medie imprese legate al sociale, al terzo settore, che è un settore fondamentale in questo paese. Adesso abbiamo le informazioni sul traffico, poi andiamo sulle imprese di altro genere, mondo del lusso che va dal legno arredo all'abbigliamento, di cui l'Italia è leader a livello mondiale. Ripeto, lo studio di KPMG segnala come il terzo marchio più noto al mondo dopo Coca-Cola e il marchio Visa sia il marchio Made in Italy, che sviluppa da solo 200 miliardi di valore aggiunto in più. Cioè, se tu il fatto che tu possa mettere Made in Italy su un prodotto vale complessivamente 200 miliardi in più il valore generato dalla sola italianità del prodotto. Dopo il traffico. Focus Economia. Allora, se il mercato mondiale dell'alto di gamma, per essere più precisi, perché il lusso poi dà sempre questa idea del superfluo, no, l'alto di gamma vale 1.200 miliardi di euro, di cui 800 miliardi fanno capo a imprese europee, e l'Italia ha da sua un'industria di 115 miliardi per quello che riguarda, ed è a livello europeo una delle più potenti, ha il contributo del PIL del 7%, quasi 400.000 addetti, 30% dell'arredamento di design, 23% nei beni di lusso per la persona, quindi abbigliamento, accessori, calzature, pelletteria, cosmetica, gioielli, profumi, il 30% nel food beverage e nella ristorazione, 22% per vini e liquori, 40% nella nautica. Matteo Lunelli, che è presidente di Alta Gamma, che appunto raccoglie oltre 100 marchi nei settori di moda, design, gioielleria, alimentare, nautica, hotel, motori. Buonasera. Buonasera, buonasera. Nonché lei è presidente anche del gruppo vitivinicolo Ferrari, se non ricordo male, ma non vorrei sbagliarmi. Esatto. Allora, senta Lunelli, è chiaro che l'alto di gamma, che per noi è importantissimo perché significa quasi 500.000 di addetti, è stato colpito da un combinato disposto, cioè dal lato i consumi sono in calo, i negozi sono chiusi, ma soprattutto vi sono meno occasioni anche per chi volesse, ne avesse le possibilità, di andare a comprare, e dall'altro vi sono venuti meno i turisti stranieri, quelli che voi chiamate big spender, cioè chi arriva e viene in Italia per fare acquisti anche nell'alto di gamma. Voi stimate un calo senza precedenti del 25%. Ho ben capito, l'unica così speranza o l'unica luce arriva dalla Cina? Beh, sì, nel senso che la Cina è stato il primo mercato a essere colpito dalla pandemia, è stato anche il primo a riprendersi, e soprattutto i dati sulla Cina sono particolarmente positivi, anche perché quello che spendevano i cinesi normalmente viaggiando, e quindi acquistando magari beni di alta gamma da via Monte Napoleone alle strade di Londra, del lusso di Londra o di Parigi, in questo momento lo stanno acquistando, visto che non viaggiano, lo stanno acquistando in Cina. Quindi questo è il motivo per cui la Cina, fra l'altro, è particolarmente in controtendenza. Purtroppo, come hai detto, il 2020 è sicuramente il peggior anno degli ultimi 30 anni in termini di performance per i beni personali di lusso, è un calo senza precedenti perché c'è stata la tempesta perfetta, mancavano, come hai detto, il turismo, la convivialità e il retail, che sono stati tre motori di grande spinta, di grande sviluppo di tutto il consumo dei beni personali di lusso negli ultimi anni. Ecco, la buona notizia è che dall'anno prossimo noi prevediamo una ripresa, ovviamente una ripresa che sarà anche significativa. Nel 2021 non ci attendiamo di poter colmare tutto il gap del 2020 e quindi ritornare al livello del 2019, che invece toccheremo probabilmente nel 2022, però sarà una ripresa significativa che noi in questo momento stimiamo con una forchetta abbastanza ampia fra il 10 e il 19%. Però che comunque, ripeto, sarà una ripresa. Mi scusi, Lulei, una curiosità che ho io, però ho capito cosa dice lei: i cinesi in questo caso, ma anche dall'America, non si possono muovere e comprano lì, però non è la stessa cosa, cioè forse è la stessa cosa per il produttore, ma comprare in Italia significa poi comprare in un negozio fisico, avere una commessa, un responsabile del negozio, cioè insomma lasciare sul territorio qualcosa in più rispetto al solo bene. Comprare su Amazon, non voglio tornare sulla polemica di ieri sollevata anche dalla Francia, però significa far beneficiare solo il produttore ma non tutto quello che ruota attorno? Assolutamente, infatti il motivo per cui noi come industria di alta gamma riteniamo che poi un rilancio del turismo sarà assolutamente fondamentale. È ovvio che oggi il turismo è bloccato per necessità, però quando si riaprirà la possibilità di viaggiare sarà fondamentale per l'Italia mettere in piedi una strategia anche per far ripartire il più in fretta possibile il turismo e soprattutto noi diciamo anche per un riposizionamento verso l'alto del turismo in Italia, perché fra l'altro anche il settore dell'ospitalità in Italia è il più colpito tra quelli che fanno parte dell'alto di gamma. Stiamo parlando di cali che sono intorno al 50, 60 o anche 70%, specialmente negli hotel di lusso, e come dicevi il turista poi porta ricchezza in generale, quindi questo è uno. Ecco. E oltre a questo è solo venendo in Italia che i turisti poi si innamorano del Made in Italy, quindi del nostro cibo, del nostro vini, della nostra moda, domanda e poi lo richiedo. Finale, Lunelli, voi vi attendete un ritorno del turismo sul modello precedente? Cioè molti hanno dubbi che il turismo d'affari, il B2B, si possa svolgere nei modelli precedenti perché molti continuano a utilizzare i webinar, insomma i collegamenti in digitale. Nel turismo, quello per diletto, invece siete più ottimisti? Sì, noi riteniamo che diciamo sicuramente per motivi di lavoro i viaggi verranno probabilmente in futuro saranno gestiti in modo diverso, perché abbiamo imparato che forse talvolta non è necessario prendere un aereo e attraversare il mondo per una singola riunione, quindi anche da un punto di vista di sostenibilità ambientale. D'altro canto invece siamo molto positivi su quelle che sono le esperienze. Noi riteniamo che comunque ci sia un trend di lungo periodo per cui in generale il mercato dell'alto di gamma sarà sempre di più legato all'esperienza, e quindi siamo molto positivi sul fatto che comunque quando ci sarà la possibilità ritorneranno i flussi turistici, il settore dell'ospitalità quindi ritornerà a essere importante, ritorneranno anche i consumi di beni di lusso durante i viaggi. Okay. E questa diciamo che è una buona notizia anche per l'Italia. D'altronde ecco, l'abbiamo avuto un esempio, cioè tutti noi siamo probabilmente in questo momento a casa e magari pensiamo quando sarà possibile, quale sarà il primo viaggio che vorremmo fare, appunto più di piacere come dicevi rispetto a quelli di lavoro. Sì, sono convinto che sarà molto diverso l'andamento del turismo d'affari, meeting, incontri, dal turismo per diletto, dove invece si cerca qualcos'altro, è una situazione diversa, e me lo auguro, soprattutto essendo italiano e tifando Italia. Grazie Matteo Lunelli, presidente di Alta Gamma, GR24, poi invece il mondo delle costruzioni e quello che sta emergendo sul recovery plan italiano. 349-238-6666 per sms. Cosa significa Analytics? Quali sono i benefici e vantaggi per le imprese che li utilizzano? Come interpretare i dati nel modo più utile alle proprie necessità aziendali? Scopri con SAS tutto quello che c'è da sapere sull'analisi dei dati per farla diventare una vera opportunità di crescita. Vai su radio24.it, entra su Analytics per il tuo business e scopri tutti gli approfondimenti con gli esperti SAS. Vorrei acquistare un veicolo commerciale ibrido, ma non so quale scegliere. Tu che dici? Ford Transit o Ford Transit? Scegli l'unico veicolo commerciale ibrido diesel, Ford Transit Hybrid. Hai fino a 12.000 euro di vantaggi grazie agli eco-incentivi Ford. Tuo a 235 euro al mese, anticipo zero, IVA esclusa. TAN 349, TAEG 453. Veicoli commerciali Ford, da sempre al fianco di chi lavora. E quello è un tuo nuovo manager? Il dottor Barbieri? Ma assumi in questo periodo. Come? Comark. Non è assunto, è un temporary export specialist Comark. Sta già portando più vendite, anche in Italia. Con queste incertezze sulle fiere servirebbe anche a me una strategia per trovare nuovi clienti, per l'export, sui canali digitali. In Comark sono stati i primi a sviluppare metodi e tecnologie per creare nuovi mercati, canali, clienti. Vai su vendinelmondo.it. Comark, competenze internazionali a supporto del tuo business. Vendinelmondo.it. Media World presenta Black Friday. Abbiamo allungato il Black Friday. Più tempo, più offerte, più tecnologia. iPhone 11 128 giga a 649 euro. Fino al 30 novembre in negozi online. Media World, il Black Friday fatto apposta per me. Azimut Peerbox eleva al cubo i vantaggi fiscali della normativa Peer Alternative. Scopri come su azimut.it. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario Azimut. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, dal settore dell'alto di gamma, così importante per il nostro paese, a un settore che aveva dato dei segnali di ripresa durante l'estate, mi riferisco al settore delle costruzioni. Invece a settembre c'è stato un calo dell'8% rispetto ad agosto, resta però una crescita del 5% rispetto al settembre del 2019. La produzione ha recuperato il 50,7%. C'è però il tema poi di quello che potrebbe arrivare dal settore delle costruzioni e infrastrutture, in primo luogo, che quest'anno dovrebbe registrare un meno 13%, che va a un meno 33% se si sommano gli ultimi 12 anni. Negli ultimi 11 anni sono stati persi 70 miliardi di investimento, e con la chiusura di 120.000 aziende e 620.000 posti di lavoro. Ora, noi sappiamo che in questo paese, purtroppo, per realizzare opere pubbliche di importo superiore ai 100 milioni servono in media 15 anni, 8 anni per i tempi di attraversamento, l'inerzia burocratica, e poi si arriva al resto. Ora, le opere realmente bloccate sono 750 per un valore di 62 miliardi. Chiedo al vicepresidente di ANCE Giovani, Luigi De Santis, buonasera. Buonasera a voi. Che cosa voi temete o avete notato, per essere più precisi, sulle ipotesi che stanno circolando di recovery plan italiano? Adesso ne parleremo dopo il collegamento con lei. Se ho ben capito, che voi dite che il 70% delle opere proposte dalla ministra Paolo De Micheli per la parte infrastrutturale erano già nella legge obiettivo varata dal governo Berlusconi nel 2001, avete registrato 77 progetti presentati per un valore di circa 108 miliardi. Sembra, vista così, una grossa frammentazione. Guardi, lei ha già praticamente detto tutto, nel senso che i numeri sono quelli che poi parlano. I numeri che lei ha citato sono appunto numeri, quindi non contestabili, e danno uno spaccato di quello che è il settore delle costruzioni, di quello che ha affrontato in questi anni. Il vero tema, purtroppo, non sono quanti soldi vengono stanziati, ma quanti soldi vengono effettivamente poi spesi e quanti di quei progetti, di quelle opere che si sono immaginate nel corso del tempo, poi vengono effettivamente realizzati. Se, come appunto lei citava poc'anzi, il 70% delle opere proposte erano addirittura già presenti nel 2001 nella legge obiettivo, vuol dire che il classico caso in cui si parla sempre tanto delle opere ma poi non le si realizzi. Alcune opere tipo il Mose di Venezia, che hanno avuto tantissime polemiche, poi oggi forse ci rendiamo conto che andavano fatte più speditamente, forse sicuramente anche meglio, ma andavano fatte. Quindi sì, rubando di anche di meno, perché poi le polemiche sono state anche quelle delle inchieste della magistratura. A questo proposito, io vorrei capire la vostra posizione, perché da un lato c'è L'idea è dire, guarda, ok, facciamo dei commissari, è già presente, se ben ricordo, nel DL Italia, Italia è veloce, l'idea di 30 opere di carattere infrastrutturale, da opere ferroviarie, autostradali, dighe, da mettere in corsia preferenziale, diciamo così, con dei commissari. Ho visto però che ANCE Sicilia dice, attenzione, con il DL semplificazioni c'è un rischio dell'infiltrazione mafioso. Allora vorrei capire, questo c'è sempre come rischio, però l'approccio vostro è più orientato a dire, visto che ricordate che alcune, due terzi delle opere proposte sono, erano già presenti nel 2001, mettiamo dei commissari, delle corsie preferenziali, oppure, perché più che il modello Genova, io dico ogni tanto il modello Expo, più che Genova, oppure attenzione, perché le procedure, diciamo, semplificate fanno realizzare l'opera velocemente, ma c'è il rischio di infiltrazione, nel senso che le due cose sembrano abbastanza in contrasto: o la semplifichi molto e la acceleri, oppure mantieni tutto un insieme di gare e controlli, però i tempi sono quelli che ricordavo. Allora, è evidente, come diceva, che purtroppo le due cose sembrano non viaggiare, no? All'unisono, perché da un lato la semplificazione sicuramente può portare dei rischi maggiori, ma su quello diciamo abbiamo fatto gli anticorpi e dobbiamo farli sempre più per evitare che esistano casi di malaffare. Soprattutto tenga conto che la categoria che rappresento è quella categoria che si è sempre schierata contro quegli imprenditori che hanno fatto, diciamo, hanno usato le scorciatoie. Quindi non si possono mettere in contrapposizione le due cose. Ci sono delle opere che sicuramente vanno accelerate, che ormai sono in una palude e quindi vanno accelerate con gli strumenti più idonei per farlo, ma è tutto il modello alla base che va rivisto, perché non si può necessariamente trovare una procedura straordinaria per ogni opera semplicemente perché quella inizialmente immaginata e prevista non è quella giusta. Quindi ci sono delle opere che devono forse prendere una corsia preferenziale e portare a compimento perché ne va la competitività del paese, invece puoi trovare a monte un modello che sia giusto, veramente semplificato. Poi dopodiché, se c'è qualcuno che sbaglia, deve pagare duramente, e l'ANCE ha dimostrato che fa pagare duramente ai propri iscritti i comportamenti sicuramente non virtuosi. Ecco, non si può in questo momento decidere una strada anziché l'altra, perché ci sono delle proposte, delle opere che vanno avanti in una certa maniera per essere accelerate, e delle altre invece per cui bisogna vedere un modello di base diverso, ecco. Senta, per concludere, che cosa temete, da quello che avete capito, perché adesso ne parleremo dopo il GR24, che cosa temete, buonanotte, dopo il traffico, che cosa temete di più sul recovery plan, o dove invece vi sembra un'opportunità? No, il recovery plan è sicuramente un'opportunità, ad esempio in alcuni settori come quella diciamo, della rigenerazione. La rigenerazione può urbana, tenga conto, le periferie, per esempio. Rigenerazione urbana, sì, tenga conto che abbiamo un moltiplicatore da 1 a 3 dell'indotto, cioè ogni euro investito in rigenerazione urbana torna con 3 euro su tutta la filiera del Made in Italy e tutto l'indotto. Si inserisce negli obiettivi poi di transizione ecologica, di inclusione sociale, perché non dimentichiamo che la rigenerazione urbana è un grandissimo volano anche di sì, lo chiarisco, rigenerazione urbana vuol dire riqualificazione degli edifici presenti già, così rispondo esatto. Anche a un ascoltatore che dice, ma non ce n'è già troppo di cemento in Italia? Beh, dipende dove, per l'alta velocità secondo me no, per alcune opere infrastrutturali no, non ce n'è troppo. Se invece la domanda è attenzione a non aggiungere altro cemento a quello già presente nelle città, nei grandi complessi urbani, e questa è la risposta che lei stava dando. Guarda, cioè, francamente mi trova anche d'accordo il telespettatore, nel senso che abbiamo dei pezzi molto importanti del tessuto urbanistico delle nostre città che vanno riqualificate, quindi non necessariamente appunto fare nuove costruzioni, ma riqualificare un patrimonio immobiliare, tenendo conto anche che gli italiani sono tra le popolazioni europee che possiedono maggiormente questo patrimonio immobiliare. Il 60% del risparmio degli italiani è nell'immobiliare, quindi rigenerare il tessuto immobiliare, urbanistico delle città serve anche a tutelare l'investimento degli italiani, oltre che, questo accade soprattutto in molte periferie degradate, a togliere anche dalle mani della malavita e del degrado sociale dei pezzi della città che rimangono veramente ai margini e diventano in quel momento periferie della vita sociale ed economica. Sì, e tra l'altro aggiungo io che è previsto dal Next Generation EU, come si chiama per davvero il Recovery Plan, il Recovery Fund, è prevista una gamba per la sostenibilità ambientale, che in parte entra con la riqualificazione e rigenerazione urbana, ma un'altra gamba è proprio l'inclusione sociale e l'inclusione dei territori, dove entrano progetti infrastrutturali, perché l'altra grossa gamba è la digitalizzazione, però dove rientrano appunto sia gli investimenti infrastrutturali, quando riescono a unire i territori, quindi ridurre le diversità e i vantaggi economici o gli svantaggi economici tra territori, ma anche poi tutti i processi di rigenerazione urbana all'interno di un territorio, ridurre le disuguaglianze sociali, ridurre, non ho detto eliminare, sarebbe impossibile. Noi resteremo su questo tema, e quindi nel ringraziare Luigi De Santis lascio la linea adesso al traffico, poi vorrei capire a che punto siamo, non della notte, ma della stesura del recovery plan. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Oggi è stata pubblicata con grande evidenza su un quotidiano una fake news. L'Italia è in ritardo nella presentazione del piano di resilienza e di ripresa nazionale. È una fake news perché, tra l'altro, abbiamo controllato, viene pure da Bruxelles. È una fake news perché è stata inventata di sana pianta. Vorrei ricordare che l'Italia in questo momento ha presentato le linee guida a Bruxelles. E le nostre linee guida, a differenza anche di quelle presentate da altri paesi, addirittura sono convalidate, sono state, diciamo, condivise anche da un passaggio parlamentare molto elaborato, molto costruttivo. Noi settimanalmente stiamo lavorando già con la Commissione, siamo in una fase di affidamento dei vari progetti e di definizione quindi dei vari cluster specificamente. Stiamo lavorando ieri sera. Sino alle 11 di sera abbiamo avuto una riunione interna per definire la struttura normativa. Stiamo mettendo a punto la struttura normativa che ci consentirà ovviamente di garantire che questo piano possa ricevere rapida attuazione. Così il Premier Conte, oggi, che smentisce irritazione per un eventuale ritardo italiano, l'avete sentito molto bene, difendendo la fake news. Anche il ministro Gualtieri ha detto... è possibile negoziato questo sul negoziato, l'opposizione di Polonia e Ungheria in primis, è possibile che il negoziato comunque si sblocchi, per quindi si arrivi a una sintesi in prima lettura durante la plenaria del 14-17 dicembre, e Gualtieri ha detto no, a noi serve un accordo completo, quindi è sembrato molto freddo sull'ipotesi circolata in Francia ieri, eventualmente di andare avanti senza due paesi, in questo caso Polonia e Ungheria. Giro però l'osservazione che ha fatto irritare, diciamo, il Premier Conte a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. Nel senso che noi ieri abbiamo raccontato con Carlo Marroni, c'era una pagina intera su Sole 24 Ore, i piani degli altri, ma non per dire che noi fossimo solo più in ritardo, per capire anche le differenze nei piani degli altri. Conte nega che vi sia una preoccupazione, è vero però che alcuni paesi hanno già depositato negli uffici della Commissione i loro piani, l'ultima è stata la Francia. E i tempi non sono scaduti, il limite non è lontano, è la prima metà di gennaio. Vorrei capire se tu hai informazioni in più sui vari progetti, perché noi eravamo rimasti a una richiesta di progetti più alti della disponibilità complessiva del recovery, che è di 127 miliardi per l'Italia di prestiti e 81 a fondo perduto, e se hai novità sulla cosiddetta cabina di regia, cioè chi avrà in mano, perché ho visto anche dichiarazioni in cui si prospetta che ogni giugno, adesso devo riprendere l'agenzia, eccola qua, che verrà fatto un coordinamento, un check-up entro il 30 giugno di ogni anno interno alla Ragioneria Generale dello Stato e una relazione al Parlamento con i prospetti sull'utilizzo delle risorse e dei risultati raggiunti. Gianni. Allora, sul primo fronte è indubitabile che il dibattito sia pubblico sia politico sul recovery plan, che aveva avuto larga fortuna diciamo tra la fine dell'estate e l'inizio di settembre, si sia poi inabissato e vi sia rimasto dopo la presentazione di quelle scarne linee guida a metà settembre, in cui si indicavano, si elencavano le sei missioni principali che a cui avrebbero dovuto rispondere una serie di progetti che al momento non si sono visti e ancora non si vedono. Quindi c'è un tema di mancata sintesi politica per il momento, perché l'avvio era stato particolarmente, diciamo, complicato. Se ci ricordiamo gli oltre 500 progetti che ogni ministero aveva tirato fuori, liberando i cassetti degli armadi anche nelle stanze più oscure dei corridoi ministeriali. No, più che il numero era il valore, perché il valore, se non ricordo male, era due volte, sulla memoria però, due volte quello che potremmo avere. Sì, anche di più, ma soprattutto non era una enfasi progettuale nata da un coordinamento, ma era semplicemente, come dire, un'azione di libertà dei vari ministeri che avevano riversato sul tavolo tutta una serie di richieste di interventi, alcune delle quali storiche, altre superate, eccetera eccetera. Da lì è emersa forte l'esigenza di coordinamento e soprattutto l'esigenza di ridurre all'osso il numero dei filoni su cui agire, concentrandoli appunto in pochi progetti guida. Su questi pochi progetti guida però la sintesi è ancora da trovare, tant'è vero che lo stesso Gualtieri stamattina in audizione al Senato ha detto che entro la fine del mese sarà presentata una nuova bozza, diciamo, di queste linee guida, quindi non sarà presentato il recovery plan al Parlamento alla fine di novembre, sarà ancora un documento intermedio nel lungo processo verso la definizione di questo recovery plan, che noi sicuramente definiremo, diciamo, prima o poi, tra la fine dell'anno e l'inizio di gennaio. Non è questo il punto. Il punto è trovare, come dire, una concordia forte politica nel governo e nella maggioranza sui principali filoni da portare avanti, e questa concordia è ancora tutta da costruire. Nel frattempo, sì, e così arriviamo alla seconda domanda, sul chi vigila, chi coordina, qual è la cabina di regia, eccetera eccetera, anche lì c'è stato uno scontro abbastanza lungo, seppur sotterraneo, tra Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia. A leggere le norme ha vinto, tra virgolette, usiamo questa espressione, il Ministero dell'Economia, perché sarà la Ragioneria Generale a vigilare sullo stato di attuazione ogni due mesi dei singoli progetti in capo ai ministeri, i quali per ciascuno dei loro progetti saranno i responsabili del procedimento, dovranno dare alla ragioneria ogni due mesi, come dire, il punto delle cose fatte, delle cose da fare, anche perché la ragioneria, quindi il Ministero dell'Economia, sarà l'interlocutore di Bruxelles per la valutazione dei piani, perché l'Europa dice vi diamo i soldi ogni sei mesi sulla base delle pietre miliari, cioè degli stati di avanzamento, diciamo, dei lavori, ma ha detto ai paesi diteci un numero di telefono da chiamare per capire qual è lo stato dell'arte, e per l'Italia il numero di telefono sarà quello della Ragioneria Generale dello Stato. A sua volta la ragioneria ogni anno, a metà anno, entro fine giugno, relazionerà il Parlamento su cosa è stato fatto, cosa è da fare, a che punto siamo nel corso dell'anno. Sì, quindi almeno qualche delucidazione in più ce l'abbiamo, nel senso che appunto tu ricordavi il numero di telefono, per usare l'espressione di Kissinger, quando diceva io quando cerco un numero di telefono per l'Europa non lo trovo mai. Il numero di telefono da chiamare in questo caso da Bruxelles sarà quello della Ragioneria Generale dello Stato, e appunto con questi due mesi di controllo e relazione al Parlamento ogni 30 giugno. Spero anch'io che si arrivi presto alla definizione di pochi progetti, ma oltre che ma buoni, anche, diciamo, significativi e non mille rivoli. Da questo punto di vista, adesso vedo una flash agenzia che leggo assieme a voi, il governo ha detto che allora alle 21 c'è un vertice di governo sul decreto ristori ter e il nuovo scostamento di bilancio, mentre il governo sul commissario calabrese, commissario in Calabria, scusate, non calabrese, sulla nomina del commissario ci vorrà il tempo necessario, un'indicazione arriverà nelle prossime ore. Nel frattempo noi torneremo a sentirci con Gianni Trovati, perché andremo a monitorare quel poco che possiamo settimanalmente, in maniera quasi quotidiana, gli sviluppi verso il recovery plan, per avere poi, insomma, la lista del piano di spesa per il nostro paese. Grazie a Gianni Trovati, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, dove purtroppo torna anche la poco invidiabile classifica.